Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Clerval mi mise in mano la seguente lettera. Era della mia Elizabeth. Carissimo cugino, sei stato malato, molto malato. E persino le continue lettere del caro e buon Harry non bastano a rassicurarmi sulle tue condizioni. Ti è proibito scrivere, tenere in mano una penna, e tuttavia una parola da parte tua, caro Victor, è necessaria per tranquillizzare la nostra apprensione. A lungo ho pensato che ogni consegna di posta ci avrebbe portato le tue parole, e i miei ragionamenti hanno trattenuto lo zio dall'intraprendere il viaggio per Ingolstadt. Ho voluto impedire che affrontasse le scomodità e magari i pericoli di un viaggio così lungo. E tuttavia quanto spesso mi sono rammaricata di non poterlo fare io stessa. Immagino che il compito di assisterti sia stato affidato a qualche vecchia infermiera a pagamento che mai potrebbe indovinare i tuoi desideri né soddisfarli con l'attenzione e l'affetto della tua povera cugina. Ma è tutto passato. Clerval scrive che ti stai davvero riprendendo. Spero davvero che confermerai presto questa notizia scrivendo di tuo pugno. Rimettiti e torna da noi. Troverai una casa serena e felice con degli amici che ti amano caramente. Tuo padre è in ottima forma e non chiede altro che di vederti, ma solo per assicurarsi che tu stia bene. Nessun rimprovero offuscherà mai la sua espressione benevola. Che piacere ti farebbe poter notare i progressi del nostro Ernst. Ora ha 16 anni. Ed è pieno di spirito e di vitalità, desidera essere un vero svizzero ed entrare al servizio dello Stato, ma non ce la sentiamo di separarci da lui, almeno finché non tornerà a casa suo fratello maggiore. Lo zio non è lieto dell'idea di una carriera militare in un paese straniero, ma Ernst non ha mai avuto la tua capacità di applicazione. Guarda allo studio come a un impedimento odioso, passa il suo tempo all'aperto scalando le colline o remando sul lago. Temo che diventerà un perdigiorno, se non cediamo e non gli permettiamo di dedicarsi alla professione che ha scelto. A parte la crescita dei nostri cari figlioli, ci sono stati pochi cambiamenti da quando ci hai lasciato. Il lago azzurro e le montagne non cambiano mai, e penso che la nostra casa tranquilla e i nostri cuori contenti siano regolati dalle stesse leggi immutabili. Le mie piccole occupazioni si prendono tutto il tempo e mi rallegrano e sono ricompensata di ogni cosa che faccio, dal vedere intorno a me solo visi felici e gentili. Da quando ci hai lasciato c'è stato solo un cambiamento nella nostra casa. Ricordi in quale occasione Justine Moritz è entrata a far parte della famiglia? No, probabilmente, quindi ti racconterò in breve la sua storia. Madame Moritz, sua madre, era una vedova con 4 figli, di cui Justine era la terza. La ragazza era sempre stata la prediletta del padre, ma per una strana perversità sua madre non la poteva sopportare. E dopo la morte del signor Moritz prese a trattarla malissimo. La zia notò la cosa. E quando Justine ebbe 12 anni convinse la madre a permettere che la ragazza venisse a vivere in casa nostra. Le istituzioni repubblicane del nostro paese hanno dato origine a maniere più semplici e più felici di quelle predominanti nelle grandi monarchie che lo circondano. Esistono quindi minori distinzioni fra le diverse classi dei suoi abitanti, e le classi più basse, non essendo né così povere né così disprezzate, hanno modi più civili e virtuosi. Una domestica a Ginevra non è la stessa cosa di una domestica in Francia o in Inghilterra. Justine, accolta in questo modo nella nostra famiglia, imparò i suoi doveri di domestica, condizione questa che nel nostro fortunato paese non implica idea di ignoranza e sacrificio di dignità da parte di un essere umano. Justine, ricorderai, era una delle tue favorite. E rammento come un giorno dicesti che se eri di malumore un suo sguardo bastava a rasserenarti, per la stessa spiegazione che l'Ariosto ci dà della bellezza di Angelica. Perché? Aveva un'aria così schietta e felice. La zia concepì per lei tanto affetto da indursi a impartirle un'educazione superiore a quella che si era da prima ripromessa. Questo beneficio fu pienamente ripagato perché Justine era la ragazza più riconoscente del mondo. Non voglio dire con questo che lo esprimesse mai a parole, perché mai ho udito qualcosa di simile dalle sue labbra, ma si vedeva da suoi occhi che ella quasi adorava la sua protettrice. Sebbene fosse di indole gaia e sotto molti aspetti spensierata, pure prestava la massima attenzione a ogni gesto della zia. La giudicava il modello di ogni virtù e si sforzava di imitare il suo modo di parlare e i suoi modi, tanto che ancora oggi spesso me la ricorda. Quando la carissima zia morì, tutti erano troppo assorti nel proprio dolore per accorgersi della povera Justine, che l'aveva assistita con il più vigile affetto durante la malattia. La povera Justine era davvero disperata, ma altre prove l'aspettavano. A uno, i suoi fratelli e sua sorella morirono, e alla madre rimase soltanto la figlia Negletta. La coscienza della donna si turbò, ella cominciò a pensare che la morte dei suoi prediletti era un giudizio del cielo per castigare la sua parzialità. Era cattolica romana, e credo che il suo confessore la confermasse in tale idea. Di conseguenza, pochi mesi dopo la tua partenza per Ingolstadt, Justine fu richiamata dalla madre pentita, povera ragazza. Piangeva lasciando la nostra casa. Era molto mutata dopo la morte della zia. Il dolore aveva conferito una composta e commovente dolcezza alle sue maniere prima tanto vivaci. Né il soggiorno a casa della madre fu tale da fare rinascere in lei l'allegria. La povera donna non era troppo salda nel suo pentimento. Qualche volta pregava Justine di perdonare la sua rudezza, ma più spesso l'accusava di essere stata la causa della morte dei fratelli e della sorella, e il continuo tormento minò la salute della signora Moritz, il che sulle prime valse ad aumentarne l'irritabilità, ma ora ella è in pace per sempre. Morì all'approssimarsi della stagione fredda, all'inizio dell'inverno scorso. Justine è ritornata con noi, e ti assicuro che io nutro per lei una grande tenerezza. È molto intelligente, è gentile e anche graziosa. Come ti ho detto, i suoi modi e le sue espressioni mi richiamano di continuo alla memoria la cara zia. Voglio anche dirti qualcosa, caro cugino, del piccolo William. Vorrei che tu potessi vederlo. È molto alto per la sua età, con due occhi azzurri, dolci e ridenti, ciglia scure, capelli ricci. Quando sorride, due fossette gli compaiono sulle guance rose. Ha già avuto un paio di fidanzatine, ma Luisa Biron, una bambina di 5 anni, è la sua favorita. Ora, caro Victor, credo che non ti dispiacerà qualche piccolo pettegolezzo sulla brava gente di Ginevra. La graziosa Miss Mansfield ha già ricevuto le visite d'augurio per le sue prossime nozze con un giovane inglese, John Melbourne. La sua brutta sorella, Manon, ha sposato lo scorso autunno il signor Duvillard, il ricco banchiere. Il tuo compagno di scuola preferito, Louis Manoir, ha avuto diversi rovesci di fortuna dopo la partenza di Clerval, Ginevra, ma si è già ripreso e corre voce che stia per sposare una graziosissima signora francese, Madame Tavernier. Si tratta di una vedova molto più anziana di Manoir, ma è assai ammirata e simpatica a tutti. Scrivendoti il mio amore si è risollevato, caro cugino, ma nel concludere l'ansia mi riprende. Scrivi, carissimo Victor, anche una sola riga, una sola parola, sarà già una benedizione per noi. 10.000 volte grazie a Henri per la sua bontà, il suo affetto e le molte lettere. Gliene siamo sinceramente grati. Addio, cugino mio, curati e ti supplico. Scrivi, Elisabeth Lavenza, Ginevra, 18 marzo 1700. Cara Elisabeth, esclamai come ebbi letto la lettera. Scriverò subito e li toglierò dall'ansia che provano. Scrissi, e la cosa mi affaticò moltissimo, ma la mia convalescenza era cominciata e procedeva regolarmente. 15 giorni dopo ero in grado di lasciare la camera. Appena ristabilito, una delle mie preoccupazioni fu presentare Clerval ai professori dell'università. Ciò facendo, mi sottoposi a una specie di tortura per nulla adatta alle ferite che erano state inferte al mio spirito. Da quella notte fatale che segnava la fine delle mie fatiche e l'inizio delle mie sciagure, avevo concepito un'antipatia violenta per il nome stesso di filosofia naturale. Per quanto avessi recuperato completamente la salute, la vista di uno strumento chimico rinnovava tutta la mia angoscia. Marie se ne era accorto e aveva tolto di mezzo ogni apparecchio. Mi aveva fatto anche cambiare appartamento perché aveva notato con quanto odio considerassi la stanza che mi era servita da laboratorio. Ma tutte queste precauzioni di Clerval risultarono inutili quando feci visita ai professori. Il signor Waldman mi mise alla tortura quando, con gentilezza e calore, lodò gli sbalorditivi progressi da me fatti nelle scienze. Presto si accorse che io non gradivo la cosa, ma, non immaginandone la causa, attribuì il mio sentimento alla modestia. E mutò argomento, passando dalla mia abilità alla scienza in sé, con l'evidente desiderio di mettermi a mio agio. Che cosa potevo fare? Intendeva farmi un piacere, e mi torturava. Era come se mi avesse posto accuratamente, sotto gli occhi, a uno, gli strumenti che sarebbero poi serviti a infliggermi una morte lenta e crudele. Soffrivo alle sue parole, ma non osavo mostrare il mio dolore. Clerval, che aveva occhi e intuizioni sempre rapidi nel discernere le sensazioni altrui, lasciò cadere l'argomento scusandosi con la sua totale ignoranza in materia e la conversazione prese un tono più generico. Ringraziai il mio amico nel profondo del cuore, ma non dissi nulla. Leggevo chiaramente la sua sorpresa, ma non cercò mai di farmi rivelare il mio segreto. E per quanto lo amassi con un misto di affetto e stima senza limiti, non riuscivo a confidargli quell'evento che così spesso si presentava al mio ricordo, ma che, temevo, mi avrebbe impressionato ancor più profondamente se lo avessi confidato ad altri. Il signor Krempe non fu altrettanto malleabile, e nelle condizioni di morbosa sensibilità in cui mi trovavo, le sue lodi rozze e sperticate mi procurarono una pena ancora maggiore della benevola approvazione del signor Waldman. «Che diavolo di ragazzo!» esclamò egli. Vi assicuro, signor Clerval, che ci ha battuto tutti quanti. Sì, stupitevi se volete, ma è vero. Un giovanetto che solo 2 anni fa credeva in Cornelio Agrippa come nel Vangelo, si è messo ora alla testa dell'università. E se non lo facciamo scendere dal piedistallo, farà perdere la faccia a tutti noi. Continuò notando la sofferenza che traspariva dal mio viso. Il signor Frankenstein è modesto, e questa qualità è eccellente in un giovane. I giovani dovrebbero diffidare di sé, sapete, signor Clerval. Io diffidavo di me quando ero giovane, ma è una cosa che passa in fretta. Il signor Krempe cominciò a questo punto un elogio di se stesso che, per fortuna, sviò la conversazione dall'argomento che tanto mi urtava. Clerval non aveva mai condiviso il mio interesse per la filosofia naturale e le sue ricerche di carattere letterario, differivano totalmente da quelle che avevano impegnato me. Era venuto all'università con lo scopo di arrivare a padroneggiare le lingue orientali, così da prepararsi la strada per il tipo di vita che aveva scelto. Deciso a seguire una carriera non priva di gloria, volgeva lo sguardo verso l'Oriente, che offriva orizzonti per il suo spirito di iniziativa. Il persiano, l'arabo e il sanscrito attrassero il suo interesse e io mi lasciai facilmente convincere a intraprendere gli stessi studi. Quanto a me, l'ozio mi era sempre stato sgradito, e ora che desideravo sfuggire alla riflessione e odiavo i miei studi precedenti, provai grande sollievo a studiare con il mio amico, ricavai non solo insegnamenti, ma anche conforto dalle opere orientali. Non cercavo, come faceva lui, di avere una conoscenza critica dei loro dialetti, perché non pensavo di servirmene che per uno svago temporaneo. Li leggevo solo per capirne il significato, e questi testi ripagavano ampiamente la mia fatica. La loro melanconia è un balsamo. La loro gioia è esaltante in un modo che non ho mai trovato negli autori di altri paesi. Quando si leggono i loro scritti, sembra che la vita consista in un tiepido sole e in un giardino di rose, nei sorrisi e nel cipiglio di una bella nemica e nella fiamma che consuma il cuore. Quanta differenza dalla poesia virile ed eroica della Grecia e di Roma. L'estate trascorse in queste occupazioni e il mio ritorno a Ginevra fu fissato per la fine dell'autunno, ma essendo poi stato ritardato per alcuni contrattempi, arrivarono l'inverno e la neve, le strade si fecero impraticabili e il mio viaggio venne procrastinato alla primavera seguente. Questo ritardo mi riuscì molto penoso perché desideravo ardentemente rivedere la mia città e i miei diletti amici. Il mio ritorno aveva subito una così lunga dilazione per la mia riluttanza a lasciare Clerval in un paese straniero prima che egli avesse stretto qualche amicizia. Ma l'inverno trascorse allegramente e il giungere della primavera, seppure tardivo, ci compensò dell'attesa con la sua bellezza. Il mese di maggio era già iniziato, io aspettavo ogni giorno la lettera che doveva fissare la data della mia partenza, quando Henri mi propose di fare un'escursione a piedi nei dintorni di Ingolstadt, per dare un addio al paese che mi aveva così a lungo ospitato. Accettai con piacere. Avevo sempre amato il moto e Clerval era sempre stato il mio compagno favorito nelle gite che avevo fatto nel mio paese natale. In questi vagabondaggi passammo una quindicina di giorni. La mia salute e il mio morale, già da tempo tornati alla normalità, trassero nuova forza dall'aria salubre, dai normali contrattempi del viaggio e della conversazione del mio amico. Lo studio mi aveva un tempo escluso da ogni rapporto con il prossimo e reso poco socievole, ma Clerval ridestò in me i migliori sentimenti, mi insegnò ad amare di nuovo le manifestazioni della natura e i visi allegri dei bambini. Eccellente amico, quanto sinceramente mi amavi e quanto ti sforzavi di elevare la mia mente al livello della tua. L'egoismo della mia ricerca mi aveva reso gretto e meschino, ma la tua gentilezza e il tuo affetto scaldarono e aprirono il mio animo. Tornai a essere la stessa creatura che pochi anni addietro, amata e adorata da tutti, ignorava dolore e tormento. Quando ero felice, la natura aveva il potere di fare nascere in me le sensazioni più deliziose. Un cielo sereno e prati verdeggianti bastavano a mandarmi in estasi, e la stagione era davvero divina. I fiori di primavera si schiudevano fra le siepi, mentre quelli d'estate erano già in boccio. Non ero più assillato dai pensieri che nel corso dell'anno precedente mi avevano gravato con un peso insopportabile, malgrado tutti i miei sforzi di liberarmene. Henri godeva della mia allegria e condivideva con entusiasmo i miei sentimenti. Si sforzava di distrarmi e insieme esprimeva ciò che gli passava nell'animo, e allora le risorse della sua fantasia erano davvero stupefacenti. La sua conversazione era ricca di trovate e spesso sulla traccia di scrittori persiani e arabi inventava racconti avvincenti e fantasiosi. Altre volte ripeteva le mie poesie preferite o mi attirava in discussioni che egli poi sosteneva con grandissima ingegnosità. Tornammo alla nostra pensione il pomeriggio di un sabato. I contadini danzavano e tutti coloro che incontravamo erano allegri e contenti. Ero di ottimo umore e camminavo spedito, pieno di gioia e di un'allegria sconfinate.